Storie italiane. Jack e i fagioli magici. C'era una volta un ragazzo di nome Jack, che viveva con sua madre in una piccola casetta vicino al villaggio. Loro erano molto poveri. Avevano venduto tutto per comprarsi una casa. Tutto ciò che avevano era una mucca che dava loro il latte. Erano così poveri che Jack e sua madre spesso andavano a dormire a stomaco vuoto. Jack era solito mungere la mucca, ma la mucca aveva bisogno di mangiare per fare il latte e loro non avevano soldi. Così a sua madre venne un'idea. Disse a suo figlio di andare a vendere la loro mucca. Va bene, mamma. Jack si recò verso il mercato per vendere la mucca e sulla strada incontrò un buffo vecchietto. Buongiorno, Jack. Buongiorno. Dove stai portando questa mucca, ragazzo? Signore, la sto portando al mercato per venderla. Oh, figliolo, ma non c'è bisogno di recarsi fin laggiù. Su, dalla me, te la compro io. E tu cosa mi dai in cambio della mia mucca? Ho qui giusto quello che ci vuole per un bravo ragazzo come te. Di che si tratta? Caro ragazzo, io ti darò i miei 5 fagioli magici. Jack era molto confuso. Signore, io non ho mai visto dei fagioli così. Quei fagioli erano molto strani. Erano enormi, molto più grandi dei comuni fagioli. Non voglio quei fagioli. Che cosa dovrei farci? Questi non sono fagioli normali, ragazzo. Sono magici. Magici? Davvero? E come funzionano? Sono così magici che se li pianterai stanotte, entro domani faranno crescere una pianta alta fino a toccare il cielo. Jack si convinse. Scambiò la mucca con i fagioli, credendoli magici. Jack, ora sono tutti tuoi in cambio di questa mucca. Jack non vedeva l'ora di mostrarli a sua madre. Arrivato a casa, Jack sorrise e mostrò cosa teneva in tasca. Guarda questi strani fagioli, mamma! Sono magici! Cosa? Hai scambiato la nostra mucca solo per 5 fagioli? Ma certo, mamma! Hai scambiato la mucca per dei fagioli! Sei forse impazzito! La madre si infuriò e gettò i fagioli fuori dalla finestra. Sei proprio uno sciocco! Jack era molto triste. Corse su per le scale e si chiuse nella sua stanza. E cominciò a riflettere. Come ho potuto essere così sciocco? Ho scambiato la nostra mucca per dei fagioli! Jack pianse nel suo letto e si addormentò. Al sorgere del sole, Jack si svegliò e guardò fuori dalla finestra. Con grande sorpresa vide una pianta di fagioli, così alta che arrivava fino al cielo. Santo cielo! Quei fagioli erano davvero magici! Jack decise di arrampicarsi sulla pianta. Era così alta che arrivava fino a toccare il cielo. Il povero Jack si arrampicò sempre più in alto, fino a raggiungere le bianche nuvole. È fantastico! Tutto sembra così piccolo da quassù! Finito di scalare la pianta, Jack raggiunse un grande portone dorato, che splendeva alla luce del sole. Quando Jack si avvicinò, il portone si aprì. Era un bel castello nel cielo ed era magico. Jack era meravigliato dalla bellezza del palazzo. Una volta dentro, Jack vide uno spaventoso gigante che dormiva su un trono. Jack aveva molta fame dopo aver scalato la pianta e così si recò verso la cucina silenziosamente. Lì ci trovò dei cesti con della frutta fresca. Appena stava per raggiungerli, Jack sentì un forte rumore. Eh? Ma che cos'è stato? Jack era terrorizzato e corse a nascondersi per non farsi scoprire. Ucci, ucci, ucci, io sento odor di Cristianucci. Che sia grande o piccinino, me lo mangerò in un panino. Adoro mangiare gli umani spalmati in un panino. Buoni. Il gigante non riuscì a trovare nessun umano. Così si mise a mangiare il cibo che aveva sul tavolo. Poi tirò fuori un sacco pieno di monete d'oro. Le contò. E infine mise il sacco sul tavolo. Dopodiché tornò a dormire. Jack uscì lentamente dal suo nascondiglio e decise di prendere il sacco di monete d'oro, pensando che sua madre non sarebbe più stata delusa da lui. Oh, com'è pesante! Devo prenderlo e andarmene subito di corsa da qui. Jack scivolò giù per la pianta con il sacco. Entrò in casa e diede le monete a sua madre. Un sacco di monete? Ah, dove l'hai trovato? Jack raccontò tutta la storia a sua madre. Sua madre era così felice che Jack avesse trovato l'oro e che fosse riuscito a tornare. Qualche giorno dopo, Jack scalò la pianta di fagioli. Arrivò in cima e raggiunse la casa del gigante. Ancora una volta, Jack vide il gigante che dormiva, ma questa volta stava russando. Il russare era così forte che Jack dovette mettersi al riparo per salvare le sue orecchie. Il gigante si svegliò. Jack si prese uno spavento e corse a nascondersi sotto il letto. Ucci, ucci, ucci, sento odor di Cristianucci. Che sia grande o piccinino, me lo mangerò in un panino. Adoro mangiare gli umani spalmati in un bel panino. Buoni. Non vedo nessun umano qui. Il gigante non riuscì a trovare nessuno. Poi tirò fuori una gallina e disse: deponi l'uovo d'oro! Adesso! La gallina depose un uovo tutto d'oro, che il gigante aggiunse a degli altri in una cesta prima di dormire. Quando il gigante se ne andò, Jack vide che la via era libera. Prese la gallina e scappò veloce giù per la pianta. Arrivato a casa, raccontò tutto a sua madre. Guarda, mamma! Stavolta ho preso una gallina. Depone uova d'oro. Guarda come fa. Deponi l'uovo d'oro! Adesso! La madre di Jack era molto fiera di lui. Per la terza volta, Jack scalò la pianta di fagioli e andò al castello del gigante. Questa volta vide il gigante cantare canzoni con una magnifica arpa. Jack si nascose sotto il tavolo. Ucci, ucci, ucci! Sento odor di Cristianucci! Che sia grande o piccinino, me lo mangerò in un panino. Adoro mangiare gli umani spalmati in un panino. Buoni! Oggi troverò quell'umano ovunque sia. Il gigante cercò ovunque, ma non trovò niente. Si stancò così tanto che andò a dormire. Nel frattempo, Jack prese l'arpa e si apprestò ad allontanarsi. Improvvisamente, l'arpa magica urlò. Aiuto, padrone, aiuto! Un ragazzo mi sta rubando! Mi sta portando via da te! All'improvviso il gigante si svegliò e vide Jack con l'arpa. Furioso, cominciò a inseguirlo. Quindi sei tu, moscerino, che ha rubato la mia gallina e la mia sacca di monete d'oro! Ti punirò per questo! Ma Jack era troppo veloce per lui. Scivolò giù per la pianta più veloce che poteva. E il gigante, capendo che era stato ingannato, lo seguì giù. Jack scivolò giù, sempre più giù dalla pianta, più velocemente che poteva, e prese una robusta ascia dalla sua casa. Jack cominciò ad abbattere la pianta. La pianta si spezzò e il gigante cadde giù. La sua corona si frantumò e la pianta gli cadde addosso. La madre di Jack vide tutto e si spaventò. La madre capì che fu uno sbaglio non aver impedito a Jack di rubare. Jack era diventato avido ed è per questo che aveva rischiato la sua vita. Andò dunque da Jack, dispiaciuta, spiegandogli: Jack, mi dispiace di averti permesso di rubare. Avrei dovuto impedirtelo. E se il gigante ti avesse catturato, tu non saresti più qui con me adesso? Mamma, oggi ho imparato una grande lezione. Ti prometto che lavorerò sodo e farò tanti soldi. Jack e sua madre diventarono molto ricchi e vissero per sempre felici e contenti.